per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua. Musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Buongiorno, le frequenze di Radio Città Fujiko per questo venerdì 11 ottobre prendono la forma dell'acqua alle 10.30. Dovevamo iniziare, siamo un po' in ritardo, però va bene lo stesso. Del resto è una forma spensierata, qualsiasi cosa arrivi e ci passi di fianco però sarà fatta col massimo della cura. È una forma però allungata, è il momento dei suoni, stili e visioni doppiamente esplorati da William Piana e Elisa Iacovucci, che vi dà il buongiorno, anzi l'aloha, esatto. Con una bella gonnellina tutta colorata, frangette, in modo da rappresentare al meglio il tutto questo sound esotico che ci accompagnerà in queste due ore. E quindi con meglio non iniziare se non con un buon drink insieme al mio caro amico Willy. Sì, un aperitivo che assolutamente gradisco, è un po' presto ma perché no, musicale sicuramente, non fa girare la testa, ci fa girare la testa solo con la fantasia, perché come inizio faremo un viaggio che arriva dai paesi tropicali, immaginati, sognati, idealizzati e poi riportati anche, diciamo così, nella nostra civiltà, se civiltà si può chiamare. Sì, diciamo che è stata un po' frullata come un buon cocktail, in modo da creare sempre qualcosa di nuovo e qualcosa di utilizzabile come sottofondo, non solo negli ascensori e nelle hall, ma anche in aeroporti, come non anche in sale d'attesa. In sale d'attesa, esatto. E ovviamente solo perché è un sottofondo non vuol dire che non sia di buona qualità. E siamo proprio qui per esplorarlo assieme, per guardare questo sottofondo, come ho detto in precedenza nella presentazione, per guardare meglio qualcosa che ci è passato di fianco e ci ha tenuto compagnia dalla fine degli anni 50 fino quasi a metà anni 70, quindi è stata una bella colonna sonora. Assolutamente. Inizia tutto immaginando un paese lontano, immaginando come poteva essere la vita di tutti i giorni, non so, in Polinesia, alle Hawaii, come ha detto giustamente Elisa, e perché no, viene riproposto, e dopo vedremo come, anche nei nostri paesi decisamente non molto tropicali. Però direi di andare a cominciare questa nostra playlist con una regina del Perù. È una regina davvero, forse, è stata forse perché non si sa, non si capisce veramente dove è nata, chi è. Ima Suma, che forse in realtà il suo nome, se letto al contrario, risulta il suo originale, cioè Camus e Amy. È un mistero, non si sa. Sicuramente si sa che la sua voce è una delle più acute esistenti. E l'andiamo ad ascoltare. We'll be right back. E torniamo in diretta. Ima Sumac o Ami Camus, non si sa. Ciò non toglie che la sua voce è estremamente forte, estremamente intensa. Per prenderla in giro, tra virgolette, dicevano che imitasse il verso delle paradisee. Eh sì, perché questi acuti quasi 5 ottave sopra, cioè pazzesco, davvero incredibile. Ed è una di quelle voci che veramente ti fa viaggiare con la fantasia in questi magici posti tropicali e caldi, cosa che riusciva molto bene in quegli anni dopo la guerra, uscire un po' dalla quotidianità e immaginare questi fantastici posti caldi dove magari delle bellissime ragazze ti accoglievano con un bel drink, esatto. Magari non era proprio la realtà, no, diciamo che era un po' troppo un'idea creata nella propria testa più che qualcosa di veramente realistico. Assolutamente, infatti alcuni visitatori successivamente si recarono colpiti incredibilmente da questa moda, colpiti incredibilmente da questa realtà, poi dissero: ma come, si mangia malissimo, si beve malissimo, ci sono i tifoni, le donne non sono belle. Questa gran bellezza, insomma, quello che contava però era l'esperienza che con la fantasia veniva riportata. È venuta, insomma, è stata la colonna sonora per tanti anni di fianco a noi e si è trasformata non solamente in genere musicale, ma anche nella società, nell'architettura, nell'arte, nella moda. E come dicevo, per quanto riguarda la società, vi sarà una figura fondamentale che cambierà ruolo: il single. Eh sì, esatto. Infatti, se prima doveva essere lui il cacciatore, la donna la preda, in realtà anche la donna subisce un po' una trasformazione, perché sì, se l'uomo scapolo diventa il nuovo oggetto a cui bisogna ambire, la donna diventa anche un po' cacciatrice, non solo preda. Quindi perché non iniziare a vestirsi con qualcosa di leopardato e iniziare ad ammiccare al primo scapolo che passa? Si diventano delle prede, ma nello stesso tempo lo scapolo non è più quella figura che non è riuscito a trovare per farsi una famiglia, ma da tutt'altro, diventerà per così dire una cartola. Eh sì. Diventerà, lui può avere tutte le donne che vuole. Tutte le amanti, quelle che vuole. È piuttosto il tipico signore che deve andare a lavorare tutti i giorni in ufficio, che diventa preso in mezzo, preso un po' in considerazione poco, perché fa una vita di routine, non fa una vita in cui il benessere, la popolarità è al centro di tutta l'attenzione. No, assolutamente. E quindi il single e la seduzione sarà un argomento importantissimo per questa colonna sonora. Il re della seduzione lo presenti tu, Elisa? Beh, il re della seduzione, allora, il Playboy Magazine lo ha eletto l'uomo più cool mai vissuto sulla terra, e sto parlando di Dean Martin, in realtà Dino Paul Crocetti. Dino Crocetti. Beh, insomma, un sex symbol italiano. Un paesà. L'italiano si sa che piace all'estero, e ovviamente iniziò la sua carriera come, non solo come cantante, ma come attore, come protagonista nella scena musicale. Tantissimi successi, da Volare a Bambo, ma anche con una bellissima canzone, Sway. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. other dancers may be on the floor. Dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. E anch'io posso perdere la testa davanti a queste note dondolanti. Sway, del resto, vuol dire proprio ciondolare, dondolare in maniera ammiccante, in maniera seducente, come Dino Crocetti in Arte Dean Martin sapeva fare. Non solo artista, cantante, attore, ma inizia come benzinaio. Addirittura, sì. Questa non la sapevo. Si inizia come benzinaio, viene scoperto per la sua bellezza, del resto un uomo così non passa inosservato da dei grandi produttori di Hollywood e dei grandi produttori anche nelle case discografiche, e subito gli viene data una possibilità anche per questa voce stupenda che io invidio tantissimo. Se vuoi posso cantarti That's Amore, che... ma io mi terrei per dopo, perché so che vorrei cantare almeno un pochino una canzone, quindi non lo so, adesso vediamo se mi viene l'ispirazione, però vediamo, non si sa mai. Ogni tanto quando mi prende, per così dire, questa voglia di caldo, sì, di estate, brava. Beh, alle nostre spalle si può dire che un raggio di sole è infatti uscito. Io non sto capendo più niente adesso, probabilmente mi verrà una sindrome di Stendhal per il clima, però. Per il clima. Sì, sì. E se voi volete partecipare a questa forma dell'acqua, 333-180-9494. Come ho detto, i generi sono svariati e soprattutto il percorso cronologico è molto importante. Detto questo, noi però vogliamo parlare anche con voi, non solo via SMS 333-180-9494, ma anche con la pagina Facebook nella quale Elisa sta già postando meravigliose fotografie. Sì, infatti ci stanno già appunto ringraziando e commentando le varie foto. Salutiamo Charlie che ci sta seguendo. Collega Charlie Marchesini. Eh sì, e intanto insomma aspettiamo calorosamente i vostri consigli, quali sono anche magari i vostri ricordi di spot pubblicitari, perché poi parleremo anche del ritorno negli anni 90 della parte più esotica e di come è stata inserita in jingle e in spot pubblicitari. Eh sì, quella parte lì è stata fondamentale proprio perché la cosiddetta musica da aperitivo da tutti i giorni, insomma, aveva anche questo aspetto degli spot, della musichina leggera fino a un certo punto, perché negli anni 70 ogni particolare era curato alla perfezione. Noi andiamo avanti perché, come ho detto, nella moda e nella moda e nel divertimento, nella società e nello striptease. Lo striptease, no? E beh, non possiamo non citare una fantastica Peggy Lee con tutta la sua grande eleganza, dove Frank Sinatra l'aveva eletta la donna più bella e più elegante del mondo. E possiamo anche ricordare una piccola citazione di Roger Rabbit, dove c'è una Jessica Rabbit sinuosissima che esce in questo nightclub e fa appunto il suo stacchetto con una canzone appunto reinterpretata da Peggy Lee, che è Why Don't You Too Right, e noi ce l'ascoltiamo. Dopo andiamo in pubblicità, scusa Elisa, non ti volevo far perdere il filo, ma ricordo che noi torniamo dopo lo stacchettino pubblicitario, essendo già le 10:55. Ripresenta la canzone Peggy Lee, Why Don't You Too Right. Restate con noi su 103.1. Full of you, why don't you do right? ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Torniamo in diretta a 11.03 minuti, siete sintonizzati con Radio Città Fujiko sui 103.1 e questo è lo Special Twice e questa invece è Moon River. Intanto iniziano ad arrivare i primi messaggi. Allora, ma siete davvero magici, con questa puntata avete fatto uscire uno splendido sole, almeno quello. Grazie, complimenti, perché con questa musica portate colore e calore. Grazie Laura, grazie. Se volete mandare un messaggio anche voi, basta scrivere al 333-180-9494. Ma arrivano anche i contributi sulla pagina Facebook? Ah sì sì, assolutamente, vi ricordo la pagina Facebook. Se volete mettere un bel mi piace, basta cercare Special Summer, Special Twice, scusate. In estate Special Summer. In estate Special Summer. Giustamente. Ma andiamo avanti per riscaldare sempre di più le sonorità e le vostre, la vostra mattinata che piano piano sta passando, sono già le 11.04 Sì, e noi andiamo anche noi di corsa, anche se questa musica invita al relax più totale. Una storia particolare, una storia interessante per quanto riguarda la mitologia polinesiana, perché si parla tanto di questo Tiki, cos'è il Tiki, questo dio antropomorfo che da vederlo ha anche lo sguardo e il ghigno un po' beffardo, sembra invitarti e nello stesso tempo così bruttarello, dici perché mi inviti? Perché lui è il protettore della seduzione, il protettore degli incontri e il protettore del tempo libero. Chi mai aveva pensato a un protettore per il tempo libero? Pensare che sono stati loro praticamente che hanno inventato l'aperitivo, esatto, diciamo l'happy esatto. hour. Hanno inventato l'happy hour. E quale modo migliore se non esportarlo in America proprio in quegli anni del dopoguerra, con il ritorno degli soldati nelle proprie case, e finalmente hanno pensato di dire ma alla fine il boom economico sta arrivando, abbiamo la possibilità e allora divertiamoci, no? Di ritorno dalla guerra di Corea, magari stanziati in questi atolli tropicali in Polinesia, vedono uno stile di vita, o almeno se lo immaginano probabilmente, poveretti, e fanno di tutto per ripeterlo anche negli Stati Uniti d'America. E quindi Call Me Nancy Wilson, un'altra voce molto suadente, ovviamente femminile, vi invita al relax più totale. Buon ascolto e a fra poco con lo Special Twice. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you go, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, please call me. Call me, tell me and I'll be around. Don't be afraid. afraid you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Quale migliore invito anche per voi, no? Eh sì, chiamate, chiamate. Mandate messaggi e diteci la vostra sul mondo esotico. È un mondo esotico pieno di colori. Sentite un po' che versi strani addirittura. Questa è la parte più integralista, è l'inizio, è come nasce. Grazie a due grandi autori, due musicisti che flirtavano anche col jazz, cioè Les Baxter e Martin Denny. E quindi direi proprio che impostare due ore di versi di paradisee, rumore del mare, orchestre che facevano questi suoni. Sì, magari sera a sera e poteva conciliare un poteva po' il sonno. Poteva conciliare un po' il sonno, nello stesso tempo poteva passarci di fianco in maniera sicuramente raffinata, ma un pochettino monotona. Da qui si sviluppano tante altre cose. Come ho detto, non solo nella musica. L'ispirazione viene dai posti lontani, riportata dai militari che ritornano in patria, e non solo, anche da un desiderio di voler rivivere certe situazioni. Nella moda, siamo negli anni 60, gli abiti cambiano o diventano improvvisamente elegantissimi, con questi completi in stile 007 neri, con la cravatta tutta sottile, i pantaloni a sigaretta, oppure un po' trash, diciamo, un pochettino, oppure diciamo che diventava con un gusto di cozzaglia, nel senso che c'era questa cosa leopardata zebrata, cane di bambù e chi più ne ha più ne metta. Però insomma, come diceva Picasso, il buon gusto che noia. Invece se inizia a creare con creatività tante cose che non c'entrano niente, paradossalmente almeno lasciano libera l'immaginazione. C'è un che di Jacobucciano in tutto ciò. Dici? mi difendo. No, ma invece ti devi stimare del tuo gusto, soprattutto per quanto riguarda il creare delle copertine bellissime per i nostri eventi. Ah, grazie. Che si corrispondono perfettamente con tutto ciò che può essere uno stile esotico. E andiamo avanti, perché nella nostra playlist, nella nostra colonna sonora, adesso è il momento di ritornare a casa, se non mi sbaglio. Lui è il grandissimo Mel Torm e ci fa ascoltare Coming Home. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now, real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away, expect me any day now, real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night and everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms, you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. I'm coming home, baby, now. You know I'm coming every day. I'm coming home now, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. That you're coming home. And I never will go away. I'm coming home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting at the door. They can't hold me back now, no more. All alone. I'm pressing on, baby, now. And pacing up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar. Say you'll be with me. Gonna be with you evermore. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. Or to either ride or phone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you. Baby, I'm for sure coming home. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. L'importanza anche dell'Hammond B3 in questi suoni, perché ricordava qualcosa di lontano, di esotico, reminiscenze per così dire tropicali, e la voce di Mel Torm, autore di tantissimi brani in nome dell'exotica. Sì, un cantante ovviamente con una voce vellutata, davvero molto molto bravo nello scat, cosa che era molto particolare all'epoca, e avere anche una voce vellutata aiutava ancora di più, come ricordiamo la grande Ella Fitzgerald, unica donna capace di creare uno scat veramente eccezionale. Eccezionale, assolutamente. Di usare la voce come strumento musicale. Eh sì, quindi non solo un Hammond, non solo vibrafoni, xilofoni, ma anche la voce ad accompagnare questi suoni così esotici. Ma tu hai parlato di questi strumenti che ripetono dei suoni lontani, ci sono anche materiali per l'arredamento. Eh sì, perché le canne di bambù non venivano usate solamente per creare una base tamburellante, ma venivano anche applicate sui muri e sui bar, i banconi. Era tutto molto esotico, a partire non solo appunto dei vestiti e dagli strumenti, ma anche proprio come arredamento. E si può fare? E si può fare, assolutamente. Una casa di bambù. Ah, una casa di bambù, assolutamente. E allora ascoltiamocela. Number 54, the house with the bamboo door, bamboo roof and bamboo walls, they've even got a bamboo floor. You must get to know Soho Joe, he runs an espresso called the house of bamboo. It's a made of sticks and bricks, but you can get your kicks in the house of bamboo. In this casino you can drink a Tino, and it's got to swing into the cha-cha. Dance the bolero in the sombrero, shake like a snake. You wanna drop in when the cats are hopping, let your 2 feet move into the big beat. Pick yourself a kitten and listen to the patter that rocks the jukebox. I'm telling you, when you're blue, well, there's a lot to do in the house of bamboo. To know, ha, Soho Joe, he runs an espresso called the house of bamboo. In this casino you can drink a Gino, let your 2 feet move to the big beat, make yourself a kitten and listen to a patter that rocks. I'm telling you, when you're blue, well, there's a lot to do in the house of bamboo. Number 54, the house with a bamboo door, bamboo roof and bamboo walls, they've even got a bamboo floor in the house of bamboo. Una casa fatta tutta di bambù, dal pavimento al tetto, ve l'ho risparmiata perché volevo cantarvi proprio questa. Eh sì, ma infatti io aspettavo che... In the house of bamboo. Eccolo, vedi. E poi io passerei anche a... Come era carina quella casa, tanto piccina, senza affitto, senza cucina. Almeno qui c'era il bambù e ci siamo salvati. Sì, era fatta con stile un pochettino, diciamo, più esotico. Più esotico, finato, sì. Quell'altra era in via dei matti numero zero. Come poteva funzionare? Scusa. Sì. Non c'era priva di nulla, quindi voglio dire. Almeno meglio il bambù di niente. Non si poteva fare pipì perché il vasino non era lì. Addirittura. Lì ci sarà un bel water fatto di bambù. Esatto. Come in un famoso locale di Bologna, dove c'è il bagno che sembra una giungla, è proprio addobbato con liane, fiori, in stile esotico proprio. Quindi se uno trova occupato può rivolgersi verso un albero. Esatto. Se sentite rumori strani di uccelli, allora sapete che siete nel posto esatto. Nel posto giusto. Indovinato, preso, come noi stiamo indovinando questa colonna sonora, almeno per quanto riguarda, secondo me, il gusto e il percorso che vogliamo fare per dare un'idea di sviluppo. Siamo negli anni 60, siamo partiti alla fine degli anni 50, adesso c'è qualcosa che va oltre il fatto della musica, arriva, come ho detto in precedenza, anche all'arredamento, all'architettura, con lo space age pop, con lo stile di vita, parlavamo dei backlore, degli scapoli, quindi qualcosa cambierà, e anche nel modo di vestirsi, e anche nel modo di ricevere gli sms se vogliono arrivare al 333 180 9494. Il tema del giorno, anche se noi non siamo così avvezzi a dare dei temi di discussione, però visto che tra un po' parleremo anche di jingle per spot pubblicitari, beh, il ricordo. Beh, e qual è il vostro ricordo, beh, a cui siete più legati, a livello di spot pubblicitario o anche solamente di jingle? Sì, ditecelo al 333 180 9494. Io sto perdendo il filo, Elisa, cosa dobbiamo... Ah, adesso andiamo in Brasile. Ah, andiamo in Brasile con un bel uccellino, un bel tico-tico. Eh sì, è questo. Allora, per me questo come jingle, come stacco, è meraviglioso. Eh sì, è fantastico, ricorda proprio all'esattezza il, non lo so, l'immaginario, sì, collettivo di quei posti. Sì, sì. Originariamente fatto addirittura negli anni 30, mi sembra, da Carmen Miranda, che la cantava su una voce, su un'aria, scusate, di un brano popolare del Sud America. E così è nato il Tico Tico. E in questo modo, paradossalmente, ritorniamo in posti che di tropicale hanno tutte le caratteristiche. Eh sì, in questo caso sì, assolutamente. Rispetto ad altre zone dove invece è stato solamente importato per il gusto e il piacere di immaginarsi in posti molto più caldi, molto più esotici. La bossa nova, i ritmi brasiliani ovviamente si sposano con molta facilità a tutto ciò. L'organo Hammond è di Walter Wanderley, in questo caso la voce è della ragazza di Ipanema. Dicevi di uno special summer? Beh, io ti posso offrire un summer samba. Un summer samba e brasilica. Would be very nice, someone to love me right. That would be very nice, someone to understand each little dream in me, someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I find someone who would take my hand and stumble through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it would be nice. Me right or wrong, someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it could be nice. Thank you. E finisce così all'improvviso, ma non proprio, veramente sfumando. In realtà stavo cercando di mettere ordine fra i CD, cara Elisa. Ne ha veramente tanti. Eh sì, davvero c'è l'imbarazzo della scelta quando si tratta di musica di alta qualità e non solo di sottofondo. Eh sì, perché negli anni 70, siamo già arrivati a quelli ormai, negli anni 70 tutto ciò che era fatto anche da Contorno, secondo me, era fatto con grande classe, era fatto con grande precisione. Quello che veniva definita una musica da sottofondo non voleva dire che era dovuta lasciata andare oppure dovuta essere stata lasciata andare, doveva essere curata allo stesso modo come se fosse stata protagonista. Sì, nulla doveva essere lasciato al caso. Molti invece pensano, ricordandosi, che ne so, della musica lounge o dei classici Buddha Bar, che spesso ci si confonde, quindi molti dicono no, a me non piace, o comunque non è una musicalità che mi appartiene, o non è di qualità. Questo, insomma, essendo anche molto vago, è anche difficile poi classificare ogni sonorità, però sicuramente c'è un mondo dietro che bisogna almeno conoscerlo, diciamo. Sì, perché è estremamente variegato, è veramente a 360 gradi, comprende addirittura anche il cinema, come ascolteremo fra poco. Ma confonderlo con quello che è stato negli anni 90, una sorta di ritorno con, a me riesce anche faticoso dirlo, del lounge, è un po' come Fonzi per chiedere scusa, per me dire lounge. Fonzi quando doveva chiedere scusa, faccio un po' fatica, perché lounge non significa assolutamente nulla, è servito per le case discografiche indipendenti per vendere qualcosina in più. Beh, ben venga, ci mancherebbe, anzi sì, era più legato magari alla sala d'aspetto, alla hall come collocazione mentale, però poi magari si disperdeva un po' troppo, come... E poi col Buddha Bar era dedicato unicamente al locale francese, era una colonna sonora proprio del locale che c'è tuttora a Parigi, che è riuscito a rallentare i beat e dare qualcosa che non fosse tra virgolette da discoteca, ma che riuscisse a fare aggregazione, in quel caso però sulla qualità ho dei seri dubbi. Sì, diciamo che poche cose riescono a salvarsi, diciamo. Ma le vedremo assolutamente, appunto, perché non citare anche il cinema, che è stato fondamentale, perché insomma sono sonorità che si adattano molto bene a, per esempio, alle spy story. Sì, le spy story, gli agenti segreti, gli scontri, i panorami assolutamente da Portofino, da Cannes, dalla Costa Azzurra, insomma, come ho detto prima, il benessere, la raffinatezza, qualcosa che doveva riportare agli abiti di lusso, alle macchine di lusso, tutto ciò che poteva essere un ricorrere con la fantasia a un benessere, a uno stare bene insieme. Infatti chi non aveva in macchina i dadi di pelo, o anche solamente la signorina hawaiana con la gonnellina, o un cagnolino che dice di sì. Sì, perché ricordiamo che il chihuahua ha avuto anche la sua importanza all'interno dell'exotica, perché era un cane appunto che veniva dal Messico, particolare, piccolino, un po' snobbino, e quindi stava bene nelle borse delle signore che passeggiavano per strada. Un po' rompiscatole, perché il chihuahua è noto che hanno i grandi, no? L'idea del cagnolino piccolo e rabbioso. E quindi il chihuahua dava questa idea, gli mettevano dei collari molto vistosi, molto particolari. Diciamo che tutt'oggi la parte dedicata ai cani è sicuramente amplissima, ed è nata proprio in quei periodi lì, dove appunto c'era una voglia di estetica anche per il proprio piccolo cucciolo peloso, per il proprio animaletto domestico. Ma noi stiamo parlando di spy story e parleremo di Nancy Sinatra, e la ascolteremo anche. Perché Nancy Sinatra? Perché è stata molto importante per quell'epoca, figlia del grandissimo cantante Frank, donna bellissima, ragazza bellissima. La ricordiamo per "These Boots Are Made for Walking", canzone molto bella anche quella, ma anche per i commenti sonori che lei ha fatto per tantissimi spy story, come questo ultimo agente segreto. In questo caso è l'ultimo anche brano per questa seconda mezz'ora della Forma dell'Acqua Special Twice. Andiamo in pubblicità, dopo rientriamo per vedere cosa succede anche dalle nostre parti, ma per adesso restate in ascolto. Nancy Sinatra, The Last Agent Man, e poi dopo torniamo con voi, state in ascolto. My man. He's the last of the secret agents and he's my man. Di rientro in diretta e sotto le nostre voci abbiamo il grandissimo Quincy Jones, che per me è stato il più grande produttore di tutti i tempi. Quincy Jones, lo ricordiamo, anche se non c'entra nulla con l'exotica e il cocktail, alla produzione del disco meraviglioso di Michael Jackson, Thriller, per cui direi che insomma qualcosina ha venduto. Sì, diciamo che bisognava almeno citarlo, visto sì. La grande importanza, era il minimo, sì. E poi secondo me, per quanto riguarda l'easy listening in ambito black, che non fosse Blaxploitation, è stato l'unico che ha fatto qualcosa di veramente esotico, commistionandolo in questo caso con la bossa, come avete potuto ben ascoltare. Soul Bossa Nova si chiama questo brano, autore Quincy Jones, decisamente più importante come producer forse che come autore, però perché no, il talento è grandissimo e quindi questo rimane nella nostra playlist di oggi dedicata a queste sonorità lontane, ma non solo sonorità. Qui così si, lontane, così, esatto. Infatti non sono poi solo sonorità così lontane. Quincy Jones, fra l'altro, oltre che essere il producer, è stato anche ispiratore per un altro grande e importante musicista italiano. Eh sì, perché dobbiamo ricordare che queste sonorità sono giunte fin nel nostro stivale in quegli anni, era un boom economico anche per noi e quindi bei tempi esatto e quindi era un modo insomma per tutti di iniziare ad andare in vacanza, a rilassarsi, a godersi anche loro delle fantastiche serate nei locali, a sorseggiare i fantastici drinks, e in televisione iniziavano giustamente a sentirsi le prime sonorità. Eh sì, e soprattutto le sonorità di commento alle pubblicità, agli spot. Chi non si ricorda, sicuramente chi è della mia generazione purtroppo se lo ricorda, ma purtroppo non perché non era un bel prodotto, ma purtroppo perché l'età avanza, è il bellissimo Carosello. Ah, Carosello, io ovviamente l'ho scoperto a posteriori perché insomma sì, non potevo assolutamente avere l'età, non ero ancora nata, però quando si vede, si ricorda la qualità, uno è come me curioso, non può che fare ricerche e andare a trovare magari i capolavori come la linea. Eh sì, io te lo consiglio assolutamente, te che sei brava poi a ricercare queste perle, non devi perderti questa. La linea, Franco Godi, e il disegnatore Cavandoli, che è stato dietro a tutto ciò, ha fatto degli anni 70 un motivo importantissimo per cui rivalutare anche i giorni nostri un'esperienza, sì, un'esperienza secondo me come Carosello, perché Carosello per noi era importantissimo, anche perché per i nostri genitori ci dicevano dopo Carosello si va a Nanna, quindi aspettavate con ansia. Sì, no, si aspettava con ansia perché era fin qui ci siamo, insomma abbiamo l'ultimo stacchettino per poter tra virgolette esprimerci e dire la nostra, perché Carosello erano tanti spottini pubblicitari, spottini poi non tanto, erano mini film per così dire, che alla fine pubblicizzavano un prodotto ben specifico, però il prodotto molte volte non era neanche al centro di tutto ciò. Vi era l'importanza artistica nel descrivere questo, era come ci si arrivava al grande momento, non tanto il grande momento. E la linea, beh, direi che sì, grande naso espressivo, tutte le preoccupazioni della vita moderna, figlio di una matita e di una mano e del grande Osvaldo Cavandoli, che l'abbiamo anche come stacchettino a Radio Città Fugico. Eccolo lì. È un personaggio, per chi non lo conosce, ma credo che siano veramente in pochi, disegnato semplicemente con una linea che passeggia sopra la linea di cui lui stesso fa parte. La mano del disegnatore interviene apposta per fargli piccoli dispetti e o aiutarlo per poi aiutarlo, sì, ovviamente. Sì. Beh, vogliamo raccontare anche della particolarità della sua voce, che in realtà non si capisce cosa dice, tranne in alcuni momenti che esce fuori un dialetto milanese. Sì. Però sì, veramente, se qualcuno ama il doppiaggio deve assolutamente iniziare da lì, quella è la base, perché davvero ti fa capire la teatralità del no sense, non dicendo nulla dici tutto. La voce è molto importante, è un gramlot. Sì, Non riesce a avere una cosa grammaticamente corretta, però con le sonorità fa capire perfettamente gli stati d'animo di questo personaggio. La musica è eccezionale, curata, strizza l'occhio al jazz, quindi molto importante e ben fatta, ma soprattutto il carattere di questo personaggio, brontolone, scontroso, ovviamente con tutto quello che gli fa capitare il disegnatore. Esatto, infatti poi gli stati d'animo vengono anche suscitati e sottolineati dai colori dello sfondo che cambia. No? Di solito quando diventa blu scuro o rosso è proprio arrabbiatissimo. Sì, assolutamente. E non solo, ricordo anche che la linea pubblicizzava la famosa pentola a pressione, per correttezza non lo dico però tutti lo sanno. Alla fine la voce fuori campo gli diceva: ma cos'hai da essere così arrabbiato, cosa cerchi? E partiva: io cerco l'agostina. E alla fine ecco, staccava il filmino e partiva la pubblicità. Però grande gusto, rispetto, ma non sono neanche degni di portargli l'acqua quelli di adesso. Insomma, andavi a dormire con un'anima sollevata. E noi ce lo ascoltiamo per due minuti, uno stacchettino della linea. Mm-hmm. Insomma, questo era quanto. Diciamo che lasciare su 4 minuti interi di spot forse un po' impegnativo, però per dare l'idea. Sì, assolutamente, di quello che era un commento sonoro, ma non solamente con le note, anche con la voce. Osvaldo Cavandoli, tra l'altro, ha avuto tanti riconoscimenti anche dal punto di vista internazionale. La linea per me è arte allo stato puro. Sì, assolutamente arte allo stato puro. E insieme alla linea non possiamo non citare anche un importantissimo cartone che ha segnato la storia degli anni 60. È da anni 60 e 70. Anni 70 e 60, grazie alla mano di Bruno Bozzetto, che inventò il signor Rossi, questo personaggio davvero immaginario, ma non tanto immaginario, perché rispecchiava un po' le caratteristiche dell'italiano medio di quegli anni. Insomma, un po' un boom economico, come dicevamo prima. Iniziavano ad andare in vacanza le persone, a comprare la macchina, e ogni episodio risultava appunto un ritratto sociale di quell'epoca, sempre un po' ironica, ma anche un po' amara in alcuni momenti. Molto amara, è probabilmente quello forse il distacco e il fatto che ha contribuito a non portare il signor Rossi a un successo come avrebbe meritato, più all'estero che in Italia. Se ne accorgono addirittura i tedeschi della Kramled, nel 2000 lo ristampano su CD e su vinile, perché la colonna sonora, sempre Franco Godi, lo stesso della linea, ovviamente musicista molto preparato, collaboratore fra l'altro, come dicevo in precedenza, con Quincy Jones. Pensate un po', chi l'avrebbe mai detto di un talento italiano dimenticato, ovviamente, perché in Italia magari si dà più importanza a Sanremo che a queste situazioni qua, ai noi. Il signor Rossi invece ha qualcosa di amaro fondamentalmente. Elisa, giustamente dicevi tante cose belle, tante cose emotivo di sviluppo. Il limite del signor Rossi è che fondamentalmente lui vede le cose che non funzionano, stanno andando tutte troppo in fretta, il progresso è troppo veloce, lui non ce la fa. Sì, anche perché comunque da un lato c'è la crescita economica, dall'altro le parti negative come l'isolamento, sempre meno comunicazione, sempre più problemi. Insomma, adesso che stiamo iniziando questa decrescita famosa, vediamo se, facendo un passo indietro, magari riusciamo a goderci un po' di più la vita. Non dimentichiamo che eravamo negli anni 70, i temi erano questi, per cui l'idea della trama del signor Rossi è perfettamente, purtroppo ai noi, adeguata ed è stata profetica. Viva la felicità, del resto è un tema amaro, se ci pensi. Sì, della serie Viva la felicità, chi la cerca già ce l'ha. Insomma, chi lo sa? Chi lo sa, alla fine infatti finisce così, con un grande punto interrogativo. Per me è un brano bellissimo, lo ascoltiamo. Noi siamo quelli dello Special Twice, 11:45 minuti, restate con noi perché il nostro viaggio all'interno degli spot prosegue. Thank you. tremare un glacé. E poi signor Rossi, cosa vuoi? Pilotare un autojet, far la doccia di champagne con un frac rococò e sbancare il casino. Cerca non ce l'ha, viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha, ma dov'è, chi lo sa, che cos'è? Sole, sole, giallo, sole, mare, mare, verde, mare, cuore, cuore, grande, cuore, fiore, bianco, fiore. Questa è la felicità, chi la cerca già ce l'ha, viva la felicità. Ascoltato sia lo strumentale che quella originale. Eh sì, esatto. Così direi che abbiamo fatto contento tutti i gusti e tutte le orecchie. Il signor Rossi e il suo famoso cane? E il cane, non mi ricordo come Gastone. Gastone. Dolcissimo. Cane che parlava, tra l'altro, quindi diciamo che era quello che era sempre spaventato. Il signor Rossi a volte si avventurava in qualcosa più grande di lui, sempre con una grande preoccupazione, e Gastone era un po' l'angelo custode. E la coscienza. La coscienza. Sì, quello rappresentava secondo me la coscienza, perché ovviamente quanti italiani medi, tra virgolette, danno una grande importanza all'animaletto domestico e molte volte rileggono in lui alcune cose che vorrebbero realizzare, oppure che vorrebbero in realtà che gli venissero dette, insomma. Quindi un signor Rossi per me di critica sociale veramente importante. Sì, all'avanguardia per gli anni, è una delle prime sperimentazioni al riguardo, insomma. Poi piano piano, dopo il signor Rossi, arrivano anche altri film che... Lo stesso Fantozzi. Esatto, come Fantozzi, che hanno una visione così sì, un po' tragicomica. Tragicomica della società, esatto. E pensare che il tutto era iniziato in America con film tipo Tarzan o King Kong, dove appunto si vedeva la contrapposizione tra l'uomo bianco. Cosa succederebbe se in questi posti un po'... Però in realtà c'è sempre questa cosa un po' maschilista della serie Tarzan, sì, perché insomma è l'uomo grosso, l'uomo bianco, l'uomo bello che può in qualche modo prendere Jane e portarla con sé. Quando si tratta della donna, viene rapita da King Kong, e in quel caso King Kong deve morire, perché c'è una lettura anche a livello proprio di coppia, perché una volta insomma un uomo bianco con una donna nera si poteva anche tollerare, ma donna bianca al contrario con un uomo nero assolutamente no. Non parliamo di King Kong, perché io ti ricordo che ho pianto 3 giorni la prima volta che lo vidi, perché secondo me King Kong è la più grande storia d'amore mai riletta sul grande schermo, per cui proprio è lo sguardo struggente di lui quando spira che la guarda, e lei che non riesce a capire se è stato un rapimento per farle del male o un rapimento perché la amava. Esatto, e quindi sì, vabbè, andiamo a toccare dei temi che preferirei parlarne per il 14 febbraio. Va bene, se va bene. Il 14 febbraio faremo le grandi storie d'amore in musica. Perfetto. È bello Special Twice, del resto ha tante risorse, questo ed altro. Ma per adesso siamo in Italia con i nostri spot, col carosello. Io mi ricordo anche lo stesso Carmen Sita della macchina del caffè, anche quello con gli omini fatti a Con. Che hanno rivisitato anche negli ultimi anni, hanno rifatto i nuovi spot, ovviamente in 3D col computer. Ma quante cose che mi perdo non avere la televisione. televisione, pensa un po', guarda anche dov'è la donna, che era la pubblicità che diceva da Carmesita vieni via, chiudi il gas e scappa, insomma sì, chiudi il gas, era una cosa tipica, sei uscita, hai chiuso il gas, quindi la vita di tutti i giorni veniva ripresa. E anche voi, se comunque volete dirci qual è la vostra pubblicità preferita, che insomma vi ricorda un po' la vostra infanzia, mateci un messaggio al 333 180 9494. Intanto arrivano in tanti messaggi, ci scrive London dicendo: un po' fuori tema, ma vogliamo parlare del capolavoro Western Soda, forse oggi un po' grande, datato, ma allora strepitoso, anche oggi grande genere. London, io ti ringrazio tanto, è un capolavoro assoluto Western Soda, è qualcosa, Elisa, che te lo fornisco, perché anche quello me lo sono riuscito a ritrovare in DVD grazie a un amico appassionato, è geniale, cioè non so per dirti, era la demenzialità più assoluta, però molto azzeccata. Mi ricorderò sempre che ero piccolo e rimasi stupito da una mucca che arriva e questo signore vuole un litro di latte, e ovviamente non è che l'apre tipo frigo. Ah, la mucca? Sì. E prende la bottiglia già fatta, cioè Western Soda per me è geniale, veramente. Grazie London per il contributo, London ovviamente ascoltatore della forma dell'acqua e anche, perché no, ottimo giocatore da playground, vabbè, ti ho dato il contentino, va London, tanto per stare un po' in compagnia. 11.55, pubblicità, la cedrata ha solo un nome. Sì, vogliamo ascoltarci la grandissima Mina? E poi dopo andiamo in pubblicità e rientriamo per l'ultima mezz'ora, restate con noi. Ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. tempo vola poi in sala d'attesa. Il tempo vola e con questa musichetta facile ma non troppo, sicuramente raffinata, le 12.05 minuti ormai, ultimi 25 minuti che sui 103.1 separano lo Special Twice dall'informazione. Ringraziamo Charlie Marchesini intanto. Sì, sì, ringraziamolo insieme anche a Zagor che ci supportano sulla nostra pagina Facebook di Special Twice. Intanto continuano a pubblicare foto e siamo qui, siamo ancora qui nella sala d'attesa tutta ricoperta di gomma piuma. Eh sì, perché deve essere una sala d'attesa silenziosa, facciamo abbastanza rumore già noi. Tu sai che Zagor lo Spirito è un grande amante di Batman? Ah sì? Sì, magari lo ospitiamo per uno speciale Batman. Sul Batman e sulle colonne sonore di tutti i Batman. Sai che in Batman degli anni 70 in America, arrivato poi in Italia negli anni 80, quando c'erano dei suoni onomatopeici, venivano scritti come nei fumetti, cioè se lui colpiva si vedeva... veniva scritto sbam. Ah, è proprio stile fumetto video. Stile fumetto. E a proposito di fumetti, io vorrei citare anni 70, ai quali io sono molto legato. E beh, c'è un ritorno agli anni 80, permettetemi di essere campanilista più a qualcosa che a me è gradito, cioè gli anni 70, dove appunto la raffinatezza, anche se era di contorno, era pur sempre molto presente. Diciamo che Super Gulp, non so se hai mai sentito nominare questo format di fumetti in televisione. Vagamente. Beh, a te sarebbe piaciuto tantissimo. Era questa idea fatta da De Maria, un produttore, un disegnatore di origine modenese, fra l'altro, che insieme a Franco Bonvicini, Bonvi, quello di Stormtroopen, decidono di portare sul grande schermo un fumetto. Cioè, l'idea è la telecamera che inquadra che inquadra le varie tavole e una voce fuori campo o più voci, a secondo se doveva essere un dialogo, lo leggevano a casa. Bello. Ma è stata una rivoluzione incredibile, è stato un must per gli anni 70. Era il giovedì e mia madre voleva vedere l'Ascia o Raddoppia e io volevo vedere Super Gulp. Erano delle lotte all'ultimo telecomando all'ultimo tastino perché il telecomando è venuto. Ah beh, giustamente. Sì, io sono un po' un dinosauro, non solo per le dimensioni ma anche perché i dinosauri avevano il cervello piccolissimo e il corpo grandissimo, quindi può essere che io abbia questa caratteristica. Ma avevano anche le braccine corte, invece tu hai delle belle braccia, quindi, quindi sei salvo. Sono salvo in questo caso. Oddio, mi sto lasciando andare ai ricordi, all'infanzia, non neanche l'adolescenza, per me questa è stata l'infanzia. Comunque i fumetti più classici che venivano in questo caso trasmessi erano, non so, l'Uomo Ragno, i Fantastici 4 e il famosissimo Nick Carter. Nick Carter era il più bello, era questo detective pasticcione che si contornava di aiutanti altrettanto pasticcioni, l'orientale Ten che chiudeva sempre le frasi con un dice il saggio, perché l'orientale ovviamente deve avere certo riferimento, dice il saggio. E poi c'era Pazzi, che era questo omone più grande di me, che ovviamente era dipinto come un tontolone, quindi doveva essere il bonaccione della situazione. La formazione era questa: Nick Carter e Super Gulp sono stati storia dell'arte dell'animazione degli anni 70 e in una situazione come questa vale la pena citare. 333-180-9494. Salutiamo anche Marina che intanto ci sta ascoltando e ci dice che stiamo andando bene, quindi continuiamo così. Meno male che non ci lasciamo andare però troppe chiacchiere, perché chiacchierando e chiacchierando siamo arrivati ai giorni nostri. Eh sì, mamma mia, infatti la parte che ricordo di più io è proprio quella legata agli anni 90, dove appunto è stato riscoperto tutto il mondo dell'exotica, è stato un po' rivalutato, sì, remixato, sì, riproposto anche in televisione, non solo ovviamente, anche nelle discoteche, nei DJ set, dai DJ dei nuovi momenti. Io ho iniziato con questo, pensa un po', quindi guarda, direi proprio che qualcosa tra virgolette di buono magari è riuscito a portare. La contaminazione è stata con quella dell'elettronica, visto il periodo, quella dei loop, quello dei DJ che riescono a rubare e campionare qualcosa ispirato a loro, e direi proprio che questo Karminsky Experience per un'etichetta molto importante che era la 18th Street Lounge ne è un esempio classico. Inspiration. Like what the stars look like, do they still twinkle or are they a steady light when you get outside the atmosphere? your own way through life. Well, I look at it myself as the beginning, really, of an exploration. Rientriamo da questi suoni un po' spaziali, un po' orientali, sempre sui 103.1. Questo è lo special Twice con la coppia di lunghi William Piana e Elisa Iacobucci. Stiamo un po' assaporando la nuova esperienza esotica, arrivando finalmente ai giorni nostri. Eh sì, perché i giorni nostri, o gli anni 90 per così dire, hanno avuto un ripescaggio ampio all'interno degli anni 70, soprattutto l'ultima parte. L'ultima parte va a trovare colonne sonore, va a riprendere dei temi, i DJ li campionano e nascono queste cose. Le sonorità ricordano molto anche lo Space Age Pop lanciato da Jean-Jacques Perry, produttore francese, con la sua famosissima Eva, questo brano che andava in loop in 4/4, molto bello. Si confondeva con l'arredamento, non so se ricordi le famose Lava Lamp. Sì, belle, perché erano anni in cui si è andata sulla luna, esatto. Quindi le influenze anche non solo cinematografiche ma anche di ambientazione, quindi di design, finalmente un nuovo design spaziale. Sì, lo Space Age Pop, non solamente le Lava Lamp ma anche le radio, le televisioni prendevano queste forme di satelliti, i primi cosmonauti russi, addirittura lo Sputnik arriva a darci messaggi dallo spazio, e quindi cose che per adesso noi risultano banali allora erano improvvisamente qualcosa di fantastico. Sì, quindi nuovi anche suoni un po' più psichedelici, computerizzati, elettronici, esatto. E tutto ciò sposa perfettamente le sonorità dei giorni nostri, come dicevamo in precedenza, andandoli a proporre a dei DJ che subito sono riusciti a metterle in pratica per la 18th Street Lounge, l'etichetta degli stessi Tivoli Corporation, che invece avranno a che fare qualcosa di più con delle sonorità esotiche e indiane, e invece con sonorità sudamericane e quanto mai piacione. Pensate un po', tanto per dire, no? Arrivano dalla Germania, loro si chiamano The Fats e questo qui è il loro Mambo Craze. My heart is filled with gladness. Oh, look. The orchestra's getting ready. Dance with me, George. Vecchia Elisa. Ma io sì, mi sento un po' vecchia dentro, però non ci si può far niente, insomma. Ma non è colpa mia, dai. No, assolutamente, anzi, proprio perché sono un po' più in là con indietro coi tempi musicali, che mi piace affrontare anche queste esperienze radiofoniche. Di riflesso, sì. Quindi si vede come in uno specchio quello che un vegliardo come me ha almeno sfiorato negli anni passati. Beh, almeno diamo una doppia visione. È chi vero. L'ha vissuta come te e chi invece l'ha sognata come me. Chi invece se la trova riproposta. Dicendo ti ricordi, io immagino un ti ricordi, potevo meglio esprimermi. Hai rivisto. Ti sei andata a cercare. Sì. Personaggi come i Supergulp o tanti altri come La Linea, chiaramente si sta parlando di metà anni 70, per cui vabbè, il tempo è quello. Però siamo arrivati già ai giorni nostri e queste sono le sonorità che sono state rubate ai DJ ai musicisti dell'epoca. Usubaju, ad esempio, è un altro grande artista, un duo che fa elettronica, dub e beat contaminati con una struttura molto più esotica e quindi perfettamente abbinabile a queste sonorità e a questi temi. Adesso però noi proseguiamo con la nostra playlist, perché è il momento di un DJ sul quale tu hai fatto delle ricerche che a me piace tantissimo. Che è Nicola... Quello di Ursula Mille. Ah, di Ursula Mille. Beh sì, diciamo che già a partire solamente dalla copertina... Guarda questo. Sì, diciamo che ricorda molto bene le immagini un po' spaziali, nuove dei tempi, insomma. Una console particolare, fra l'altro senza mixer, quindi mixerà con la fantasia, degli occhialoni tipo i miei, l'acconciatura anche, e questo DJ per 18 Street Lounge, pure lui, come gli stessi Thievery Corporation, è riuscito a mettere insieme musica da ballare, musica da ascoltare, come dicevamo in precedenza, musica per tutti i momenti. È stato definito lounge, ma per me con lounge c'entrava veramente poco, era semplicemente una rivisitazione elettro di quello che era la cocktail music, Kind of Kinky degli Ursula Mille. Boom. chi? Abbiamo fatto passare 50 anni praticamente. Mamma mia, abbiamo fatto un tuffo nel passato nonostante restiamo nei giorni nostri, ritorniamo comunque nel passato lo stesso. Questi sono un po' accattivanti, un po' lounge e sexy. Eh sì. E su queste note, come hai detto te, accattivanti e perché no, anche sexy assolutamente, vogliamo dare uno sguardo anche al futuro? Al futuro? Cosa ci sarà nel nostro futuro Special Twice? Chi lo sa, magari qualcosa di più gustoso, qualcosa di più accattivante al palato. Oh, quindi dopo un invito per un ottimo aperitivo o per un cocktail vuol dire che mi inviti a pranzo? Eh sì, perché dopo l'aperitivo giustamente non è che basta per mangiare, bisogna poi sedersi a tavola e darci dentro, come piace a noi. Come piace a noi, assolutamente, che siamo dei buon gustai. E venerdì prossimo William Piana e Elisa Iacobucci mixeranno con delle ottime pietanze che presenterà Elisa, che è una grandissima cuoca, e cercheremo insieme di fargli anche una colonna sonora. Eh sì, qualcosa di stuzzicante che sia una buona musica per accompagnare chi sta cucinando, chi mangia o anche proprio che parla di cibo. La potremmo chiamare Home Cooking. Home Cooking. Fatto in casa. Eh sì. Beh, era una famosa serie di collezioni e di raccolte di Greatest Hits di Greer Groove, però diciamo fatto in maniera molto immediata, l'avevano chiamato appunto Home Cooking. O anche il disco è servito. Tutti a tavola e via, il disco è servito. Il disco è servito sul piatto. Sul piatto, e esatto. E qui potremmo andare avanti a oltranza. Sì, infatti, anzi, fermiamoci. Anzi, ricordiamo, oltre ovviamente al nostro numero di messaggi, oltre alla pagina Facebook, anche la possibilità di ascoltarci in streaming. Infatti abbiamo visto che anche dall'Argentina abbiamo avuto dei contatti. Quindi basta andare sul sito www.radiocittafugico.it e ascoltare direttamente la diretta online. La diretta online, e poi dopo ci occuperemo anche di quello che sono gli eventi, nello specifico di uno in particolare, dal 26 ottobre al 27 novembre con il Festival del Jazz a Bologna. Eh sì, grandissimo evento, siamo tutti in fibrillazione in attesa del Jazz Festival di quest'anno, davvero speciale e innovativo. Eh sì, e soprattutto lungo, perché lungo? Un mese non c'è mai stato. Personaggi famosi e importanti, fondamentali per la scena jazz contemporanea, come Dave Douglas, più grande trombettista vivente, Jack DeJohnette, probabilmente il più grande batterista vivente, il progetto Shakti che viene riproposto con la commistione indiana, in questo caso però legata all'improvvisazione e non all'easy listening, e poi dopo Yang Arbarek featuring Don Byron, che non è l'uva amaro, un'altra pubblicità degli anni 70, perdonate la facile battuta, ma è un clarinettista e un sax alto dagli Stati Uniti d'America del movimento di New York, quindi il massimo di un incontro tra un'improvvisazione e un mondo intellettuale e ai giorni nostri molto molto preparato e allo stesso tempo piacevole. Ma Willy, non mi hai detto qual è la tua pubblicità preferita dei ricordi d'infanzia? Ce ne sarà almeno una? Beh, la linea sicuramente è una fra queste, anzi direi proprio che quella che mi salta in mente nell'immediato è la linea, oppure anche lo Stock 84. Oddio, l'ho detto, vabbè perché mi piaceva la musica, quindi direi che l'importanza delle pubblicità non è tanto il prodotto nel mio caso, e infatti come vedi, bello, libero, l'ho detto liberamente, ma è quello che c'era nella muschietta, nel nello stacchettino, nel jingle che mi acchiappava. Siamo ai saluti, mia cara. Eh sì, purtroppo siamo arrivati alle 12:27, quindi bisogna salutarci. Vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto, ci vediamo ovviamente venerdì prossimo per la nostra nuova puntata su sempre Special Twice all'interno della forma dell'acqua, e vi auguriamo buon appetito ma soprattutto un buonissimo weekend. Ciao a tutti. Ciao. Vi lasciamo con una bossa per due.